La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16:29, primi, addirittura in anticipo, dopo Pasqua, la pubblicità evidentemente di meno, quindi mi batto il petto. Ma detto tutto questo, siamo in diretta da Milano, spero che tutti abbiate passato, per chi non ha lavorato, sì, c'è chi lavora anche nei giorni ovviamente di vacanza, un riposante Pasqua e Pasquetta, e noi siamo in diretta da Milano e vi ringraziamo come sempre per l'ascolto in diretta in podcast della versione di Oscar, e vi ricordo l'indirizzo. La versione di Oscar @radio24.it. Oggi, visto che l'agenda internazionale non ci fa, non ci risparmia sorprese, torniamo su un punto che è quello della vittoria per un risicato margine, contestatissimo, secondo me ha ragione, di Erdogan al suo referendum costituzionale in Turchia, e ci dobbiamo porre il problema di capire un po' meglio. È un dittatore vero e proprio quello che esce col 51,4% ufficiale, però contando 2,5 milioni di schede non timbrate in questo risultato, alla luce dei nuovi poteri che la riforma costituzionale gli attribuisce, e al di là dei poveri turchi, perché perdonatemi, ci dobbiamo aspettare più nazionalismo, più corruzione, più oppositori in galera, come non hanno mancato di mettere anche deputati dell'opposizione in galera, più giornalisti in galera. Ma detto tutto questo, per noi, cioè nel Mediterraneo con gli immigrati, per l'Europa, cosa dobbiamo pensare che cambi davvero? Voi potreste dirmi, ma cosa vuoi che cambi in definitiva? E insomma, noi avevamo rapporti economici con la Turchia, con investimenti in imprese italiane non proprio secondarie. Erdogan ha cambiato fronte diverse volte nella partita siriana. Prima, ricordatevi, non era vicino alla Russia, abbatterono un jet russo, poi cambiò posizione e divenne filo russo, sono arrivati i 59 cruci di Trump, è diventato filo americano riallontanandosi dalla Russia. Non si capisce molto bene quale sia il nocciolo, se non che resta il fatto che all'estero il voto dei turchi, a cominciare da quello in Germania, dove sono alcuni milioni gli espatriati, gli immigrati turchi che risiedono e lavorano in Germania, storicamente il paese di maggior afflusso dei turchi dagli anni 60 in poi, beh, lì i turchi che hanno votato dalla Germania al 63% hanno detto sì, in Francia al 65% hanno detto sì. Da noi al contrario il 62% ha detto no, ma da noi sono incomparabilmente meno di quanto non siano in Germania. In Spagna addirittura i pochi turchi che sono lì hanno votato all'87% per il no. Però resta il fatto che insomma noi abbiamo alcuni milioni di turchi adesso nel cuore dell'Europa, tra Germania e Francia, che sono a favore di un leader autocratico senza più contropoteri in Parlamento, e che ci definisce, come ha definito sprezzantemente il fatto che l'Organizzazione Europea per la Sicurezza e la Cooperazione ha definito il voto macchiato da standard non rispettati, quindi c'è un enorme interrogativo internazionale ed europeo su quel voto. Lui ha risposto dicendo: questi sono punti di vista da crociati, cioè si chiama crociati esattamente come ci chiamava Al-Qaeda, eh. Non è proprio una cosa da sottovalutare, per così dire. Sapete anche che nelle novità della giornata ci sono le elezioni chiamate a brevissimo da parte del premier britannico May, e che cosa questo vorrà dire ce lo chiederemo un'altra volta, se questo significa sospendere per il momento gli approfondimenti sulla Brexit, se significa invece che la May probabilmente voglia intestarsi lei la battaglia per la Brexit scuotendo e diminuendo di molto in Parlamento la rappresentanza dei laburisti, che hanno 20 punti di svantaggio con la leadership di Corbyn. Vedremo. Però intanto oggi tentiamo di capire, oltre a tutti i nostri guai, quanti altri ce ne vengono, se ce ne vengono, da questa scelta dei turchi. E abbiamo in questa prima parte della trasmissione, in questi minuti, e mi sento in colpa perché paga di tasca sua il telefono, l'ottima Marta Ottaviani, a cui più volte abbiamo fatto ricorso, il giornalista e corrispondente della Turchia. Chi avesse dubbi e voglia approfondire, legga il suo bellissimo libro Il Reis, come Erdogan ha cambiato la Turchia. Grazie Marta di essere con noi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Per la Turchia non sono giorni particolarmente splendidi, ma tant'è. Senti, ma tu ti aspettavi il 51,4% così risicato, malgrado i sospetti molto forti di brogli? Ma in realtà io proprio proprio alla vigilia avevo intervistato Murat Gezici, che è un personaggio molto interessante, ne ho scritto proprio sulla stampa l'altro giorno, anzi l'articolo che è su oggi, e lui aveva previsto che Erdogan avrebbe vinto col 51,3, anche se lui aveva votato no. Ma la cosa interessante è che Gezici nel 2015 si era beccato una multa da 40.000 euro dal Ministero delle Finanze per aver pubblicato un sondaggio che dava Erdogan perdente alle celebri elezioni del giugno 2015, quando effettivamente l'AKP perse per la prima e unica volta il controllo assoluto del paese. Quindi diciamo che, confidando nella perizia sondaggistica di Gezici, mi aspettavo un risultato del genere, ma in realtà che non sarebbe stato un plebiscito, in qualche modo si era capito, perché è una Turchia molto, come posso dire, infastidita una parte almeno dalle politiche del premier. Il problema grosso è proprio questo, è che c'è una parte infastidita a più teste, ci sono i kemalisti, ci sono quelli di estrema destra, ci sono i curdi, ci sono i comunisti, e dall'altra parte c'è però un fronte del sì assolutamente compatto, che sono gli islamico-nazionalisti del Presidente della Repubblica. Quindi è veramente una situazione di estrema delicatezza e che potrebbe comunque sfociare un aumento della violenza tra le strade. Senti, il titolo dell'articolo sulla stampa, che appunto ho pubblicato oggi a pagina 3, che è scritto, dice: il Presidente ha perso l'appoggio della parte produttiva della Turchia, perché le città più ricche e sviluppate hanno, compresa Ankara, tutte votato per il no a maggioranza. Assolutamente sì, a parte Smirne, che proprio Erdogan non l'ha neanche mai vista con il binocolo, per gli ascoltatori ricordiamo che Smirne è la terza città dal punto di vista economico del paese, se non addirittura la seconda, e soprattutto è la roccaforte dei laici in Turchia. Qui ha stravinto col 70%. Erdogan, molto importante, ha perso Istanbul, che è la città invece che ne ha sempre rappresentato il trionfo, se si conta che Erdogan è stato sindaco di Istanbul dal 94 al 98, e particolari molto importanti ha perso Antalya, che è una città molto importante soprattutto per quanto riguarda il turismo. Gli italiani la conoscono, esatto. Infatti per il turismo molto bene, esatto, e ha perso Mersin e Adana, che sono la prima una città a tendenza nazionalista, laico-nazionalista, e la seconda è una città molto vicina al confine con la Siria. Quindi insomma probabilmente la crisi siriana sta impattando, diciamo, sugli orientamenti dei turchi più di quanto Erdogan potesse immaginare. Tu dici anche che i nazionalisti sono spaccati. E uno dice invece, no, la carta fondamentale di Erdogan da sempre è il nazionalismo turco. Perché sono spaccati? Perché per nazionalisti intendo gli elettori del MHP, il partito nazionalista turco, che sono nazionalisti, ma attenzione, su base etnica, quindi loro sono in primo luogo turchi e poi sono musulmani. Invece se si parla con i seguaci di Erdogan, sono prima musulmani e poi turchi. Non è una differenza da poco conto, perché una parte dei nazionalisti, proprio quelli che hanno votato no, si ritengono i veri eredi della dottrina di Mustafa Kemal Atatürk, ricordiamolo, il fondatore della Turchia moderna e dello Stato laico, e quindi vedono le politiche di Erdogan più o meno come il fumo negli occhi. È un particolare interessante, perché il partito nazionalista, che è il quarto partito del paese, è spaccato a sua volta, ma devo dire che anche all'interno della AKP covano tensioni non da poco. Il problema è che fino a questo momento nessuno ancora ha trovato il coraggio di opporsi a un leader che sostanzialmente guida il paese da solo, ma anche prima del referendum. Erdogan è da tempo che non si consulta più con i suoi compagni di partito, che eseguono pedisseguamente i suoi ordini, e sanno soprattutto che ci sono 25 milioni di persone che hanno votato per Erdogan. Quindi insomma, anche riuscire a indebolire un leader del genere, che comunque fino a questo momento è sempre stato vincente, è un rischio non da poco per loro. Ma con i nuovi poteri, forze armate, magistratura, Parlamento eluso, visto che può governare praticamente per decreto, nominare i magistrati, eccetera, eccetera, chi volesse opporsi all'interno del paese, che strumenti ha? Questa è una bellissima domanda. Teoricamente deve aspettare le elezioni e candidare una persona che possa battere Erdogan alle urne. Oltretutto, pensate che con la nuova Costituzione non ci saranno neanche più le interrogazioni parlamentari, potranno avvenire solo per iscritto, dovranno essere presentate dal capogruppo. Anche la magistratura sarà purtroppo, risentirà in maniera importante di questa riforma, perché cambiano i criteri per le nomine dei membri del CSM turco. Quindi, insomma, è una riforma veramente di vasta portata. Infatti, da qui al 2019, quando entreranno in vigore la maggior parte degli articoli previsti dalla riforma, io credo ci potremo aspettare sorprese di vario tipo, e da parte di Erdogan, che ovviamente userà questi due anni per reprimere tutti i possibili oppositori, e da parte di quegli scampoli di pubblica amministrazione, di società civile che ancora riescono a reagire, ma che, ricordiamolo, sono indeboliti soprattutto da tre cose. Il primo è lo stato di emergenza. Ricordiamoci che la Turchia dal 20 luglio è in stato di emergenza, giusto ieri è stato prolungato di altri tre mesi. Il secondo è una parte di paese che, ripeto, sta con Erdogan e, scusate l'espressione non proprio fine, ma è pronta a menare le mani pur di difenderlo. E la terza è che purtroppo Erdogan in questo momento non c'è un leader politico che possa definirsi un'alternativa al presidente, che quindi possa calamitare, diciamo, le attenzioni ed eventualmente il voto dell'elettorato. Quindi tradotto significa una lunga leadership autoritaria, visto che ci sono meno contrappesi nella nuova costruzione di quanto fosse nell'Italia, mi spiace dirlo, ma fascista, nel senso che il Parlamento fino alla Camera delle Corporazioni, ma persino dopo, contava di più nell'Italia fascista italiana di quanto conterà con Erdogan. E i procuratori del re erano meno fascisti di quanto non saranno, grazie al potere dall'alto di controllo, i magistrati di Erdogan. Tanto per capirci, ma non è un giudizio politico, non sto dando del fascista Erdogan, stiamo parlando di storie diverse, eccetera. Sto parlando di tecnicalità, di come hanno fatto piazza pulita dei contropoteri nella Costituzione. Ma domanda finale, quindi, per il Mediterraneo e per quello che ne arriva dai flussi all'Italia, 1, 2, e per le politiche medio orientali, stante i cambi di fronte repentini a cui Erdogan ci ha purtroppo, o per fortuna, non lo so, dipende dai punti di vista, abituato in questi mesi. Cosa cambia per l'Italia e per l'Europa, secondo te? Ma allora, per l'Italia a naso, poi bisogna vedere, perché Erdogan è una persona imprevedibile, anzitutto dovremmo, permettimi di ricordarlo, capire come si risolve la questione di Gabriele Del Grande. Bravo. Che potrebbe diventare un caso diplomatico, anche perché del collega Del Grande non si hanno notizie dirette ormai credo a 10 giorni. Io devo dire ai nostri ascoltatori che, siccome stamattina con Alessandro Mina abbiamo lanciato un appello alle autorità italiane per fare tutto il possibile, siamo stati, lo dico per informare gli ascoltatori, chiamati alla fine della trasmissione per dirci: guardate che fate benissimo a lanciare questi appelli, vi possiamo garantire che in contatto anche con la famiglia stiamo facendo tutto il possibile. Però non ci hanno nascosto che la condizione è delicato. No, ma io poi, attenzione, che le nostre autorità diplomatiche e il governo stia facendo tutto il possibile, io non lo metto minimamente in dubbio. Rimane però il fatto che una persona che è stata fermata sul confine siriano mentre probabilmente firmava senza permesso in una zona dove non si poteva e doveva essere rimpatriata in 48 ore, di Gabriele Del Grande non si sa ancora nulla, non ha incontrato un avvocato, non ha incontrato le autorità diplomatiche. È inaccettabile una cosa del genere. Certo. Quando se lo vogliono restituire, vogliamo fare un altro caso Baraldini? Esatto. Perché c'è purtroppo qualcuno ha anche ipotizzato che potrebbe andare sotto processo in Turchia. Sono voci incontrollate, assolutamente non confermate, non ci sono incriminazioni a carico di Del Grande in questo momento, però io trovo assolutamente inaccettabile che questo ragazzo, che peraltro ha moglie anche due bambini piccoli, certo, risulta, sia, non si abbiano notizie. Cioè noi la voce di Del Grande non l'abbiamo sentita, ma non noi, io e te o il gentile auditorio che ci segue in questo momento, la sua famiglia, le autorità diplomatiche e chi, investito in un'autorità di avvocato, ha il dovere di difenderlo davanti alla legge nel caso dovesse venire incriminato per qualcosa. È inaccettabile questo atteggiamento ed è una delle prove dell'arroganza che la Turchia sta manifestando sempre di più, e lo dico mentre sono ancora comunque sul territorio turco, e devo dire che in questi giorni che ho seguito le elezioni con molti colleghi stranieri e una grande collaborazione tra di noi, un po' appunto per, come dire, atteggiamento corretto nei confronti dei colleghi che lavorano, un po' perché giustamente in un momento non di paura ma quantomeno di timore e di attenzione ci si stringe un po' tutti insieme. Questo insomma è anche abbastanza automatico, e quindi insomma insomma, la situazione è veramente molto delicata e mi sono permessa di ricordare di Gabriele del Ponte. Fatto benissimo. Non se ne parla e vorremmo sapere, vorremmo gentilmente sapere da lui in prima persona come stia. Ecco, quanto ha Trump Russia Europa secondo te sullo scacchiere siriano? Questa è la domanda più importante di tutte. La cosa drammatica è che l'Europa conta poco e a Erdogan interessa ancora meno per il momento. E bisognerà vedere come Trump impatterà sulla crisi siriana, se è vero o meno che stia litigando con Putin, cosa che a me tutto sommato sembra anche abbastanza discutibile, e soprattutto come vorrà utilizzare la Turchia. Lì c'è uno scoglio molto grosso che si chiama Fethullah Gülen. Erdogan ha chiesto più volte l'estradizione, ricordiamolo, di questo ex filosofo islamico, ex imam, che per lungo tempo è stato il più grande alleato e anche finanziatore di Erdogan, e poi quando c'è stato da spartirsi il potere nel paese hanno iniziato a litigare tra di loro. Io dubito che gli Stati Uniti troveranno mai Gülen. Sono molto d'accordo con te. Esatto, anche perché, voglio dire, toglierebbe l'unico al momento anticorpo naturale per limitare Erdogan in qualche modo. Tra l'altro c'è un dato molto interessante che mi permette di sottolineare, che nel voto all'estero, negli Stati Uniti dove c'è Gülen, il no ha vinto con l'80%. Esatto. Questo è un dato che sicuramente ha dato molto fastidio a Erdogan, anche perché negli Stati Uniti si trovano anche molte attività economiche e finanziarie di Gülen. Quindi insomma, mi sembra un messaggio veramente molto chiaro. E quindi, dicevo, dipenderà tutto da come Trump impatta sulla crisi siriana. La mia impressione, ed è ovviamente più o meno un incubo, è che Putin e Trump alla fine decideranno più o meno come spartirsi questo finto ordine mondiale, guidato, diciamo, non proprio da due sinceri diplomatici, e useranno la Turchia come strumento di lusso nelle mani ora dell'uno ora dell'altro. Purtroppo la mancanza di un'Europa forte permette a loro di fare quello che vogliono. Ed è esattamente questo secondo colonna del problema. Cosa ci dobbiamo aspettare dalla Germania, semplificando, che andremo dopo la pausa sul traffico. Non ricordiamoci che c'è un interlocutore scomodo nella partita siriana sciita, cioè l'Iran. Ecco, l'Iran è meno, per così dire, imprevedibile di Erdogan, però è forte sul campo, come Erdogan si sogna di essere, con la spina curda nel suo fianco. E grazie intanto a Marta Ottaviani, buon lavoro, mi raccomando, prudenza, ma continua a darci le preziose informazioni che ci dai per scritto, in televisione e in radio. Un abbraccio a Marta Ottaviani e a tutti i colleghi stranieri che ci consentono di capire che cosa succede in quel paese ancora più autoritario. Traffico. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16:49, primi 30 secondi. Avete sentito Marta Ottaviani, collegata alla Turchia, un'analisi di quello che sta succedendo e di cosa ci può aspettare dopo questo voto molto discutibile, con brogli, insomma, avete capito, 2,5 milioni di schede non timbrate, decidendo di utilizzarle a spoglio già aperto da parte della commissione elettorale, che ha poteri inoppugnabili, cioè non si possono impugnare, cioè, no? In qualunque paese di nostro modello democratico farebbe urlare tutti al colpo di mano. Ecco, questo è il modo attraverso cui Erdogan ha ottenuto quel 51,4%, perdendo tutte le grandi città turche, il blocco nazionalista più povero, sunnita, prima musulmano e poi nazionalista, ha faticato molto. All'estero, in Europa, in Francia e in Germania, soprattutto in Germania, dove c'è la comunità di milioni di turchi, qui era più numerosa all'estero, ha vinto Erdogan, andando oltre il 60%, altrove invece ha perso. E la domanda diventa, dove eravamo arrivati appunto con Marta Ottaviani a porci il problema. Ma per l'Europa, e quindi cominciamo, per la Germania, che è la più grande comunità espressa sia a maggioranza per l'autoritario, ancora più autoritario con questa riforma costituzionale Erdogan, come si comporterà? Che linea terrà la Germania, in cui si avvicinano le elezioni, la Merkel in testa, ma il governo Merkel come si porrà verso Erdogan, che ci ha sculisciato definendoci crociati zittendo le obiezioni degli osservatori al suo voto. Ecco, Tobias Piller, che è corrispondente dell'Italia della Frankfurter Allgemeine Zeitung, grazie di essere con noi. Secondo te la risposta a questa domanda è: cosa ci possiamo aspettare dalla Germania verso questo Erdogan? Merkel e anche il ministro degli esteri, l'ex capo dei socialdemocratici Gabriel, sono molto cauti, perché una volta che si è rotto della porcellana certamente non si può più mettere insieme così. Saranno cauti a tirarsi fuori, a rompere, a abbandonare i tavoli, cose del genere. Ma dall'altro lato certamente c'è grande attenzione anche sul fatto che tanta gente che vive nella democrazia e vuole il diritto di riunirsi liberamente poi ha votato proprio Erdogan. Ma io andrei comunque anche a qualificare questo, perché ci sono, occhi croce, diciamo 3 milioni di persone discendenti turchi in Germania, di cui 1,5 milioni ha la cittadinanza e il passaporto tedesco, e quelli sono certamente ben integrati. Un'altra metà, così 1,4 milioni, qualcosa del genere, ha così passaporto turco, poteva votare, e di quelli la metà ha votato, e di quella metà ha votato 60% per Erdogan. Certamente saranno quelli che forse sono un po' meno integrati e quelli che dicono: ma finalmente contiamo qualcosa in Germania. E dall'altro lato certamente conosceranno la Turchia solo da una situazione più di vacanza, diciamo, e forse non tutta la vita della politica della Turchia. Senti, pochi giorni fa il ministro delle finanze Schäuble ha pronunciato un giudizio molto secco, io l'ho rilanciato su Twitter, dicendo: gli immigrati musulmani venendo qui accettano le nostre leggi tedesche ed europee, se preferissero di vivere sotto la Sharia allora altrove nel mondo ci sono posti migliori che qua. Ed era molto secco anche il tedesco che ha usato su questo. Si riferiva anche ai turchi che dopo pochi giorni avrebbero votato al referendum domenica turco, oppure a chi in particolare si riferiva? Sì, ma penso proprio che lì ci saranno dei distinguo così, perché per molto tempo c'era il principio che chi è figlio di genitori immigrati turchi a 18 anni deve scegliere passaporto turco o tedesco. Poi i socialdemocratici verdi hanno detto: no, non devi più scegliere. E adesso abbiamo tanti che hanno così due passaporti. E la CDU adesso dirà: torniamo indietro, cerchiamo di essere più rigidi, non puoi più avere... Quindi per dire deve essere una scelta manifestata dal maggiorenne, quella, se sceglie il passaporto è come se fosse un'accettazione, insomma, dei valori, dei principi ordinamentali e del sistema giuridico. Era questa l'idea che c'era così fino alle riva del governo verde socialdemocratico nel 2001, nel 90-98. Poi loro hanno cambiato il principio e si vede adesso che lì c'è certamente anche un difetto se non si sceglie così, con la testa e col cuore. Ma si va avanti così imparando. Altro problema anche importante in Germania è il fatto che tanti docenti, tanti imam così nelle istituzioni islamici erano di fatto controllati dal Ministero della Religione turca. E anche lì si cerca adesso di trovare una situazione più europea e con più distanza dalla Turchia. E in effetti abbiamo visto anche che per lo svolgimento della campagna elettorale, con membri del governo, personale diplomatico turco che erano impegnati in Germania, abbiamo visto che c'era, insomma, una certa distinzione, come fare il vecchio tacco e punta con la 500 tra la posizione del governo federale rispetto a quello di alcuni Länder. Bene, grazie anche a Tobias Piller per averci dato questa fotografia della prudenza che bisogna aspettarsi dalla Germania rispetto a Erdogan. C'è Piero da Roma che ci chiama. Sì. Ecco Piero, lei... Allora, io vi chiedo la cortesia di permettermi di dirvi che ho bazzicato la Turchia per lavoro e poi come turista tra la fine degli anni 60 e la metà degli anni 80 e ricordo una Turchia bellissima, occidentale, proprio completamente occidentale, dove dovunque si andasse si poteva camminare alla stessa stregua di quello che si sarebbe fatto se si fosse andato in una qualsiasi altra. Erano anche tonnellate e tonnellate di cemento lungo la costa scendendo da Izmir fino ad Antalya, diciamo, prima quello, insomma, era quello, però all'epoca è successo dappertutto, esatto. No, verissimo, verissimo, Spagna, verissimo. No, ma poi noi parliamo a casa nostra, cosa è successo, certo. Io ci sono tornato poi con mia moglie non più tardi di 6 anni fa e ho già cominciato a trovare un paese completamente diverso, sì, certo. Con le donne completamente coperte da questi scialli lì, io poi entro certi limiti sono mezzo ateo, quindi per me... E quindi ai suoi occhi Erdogan si fida o non si fida? No. Dunque, per me Erdogan è una persona assolutamente negativa. Io però, lei è un giornalista, proprio in questi giorni sto leggendo un libro di un suo collega che si chiama Panza, sì. E ha scritto a suo tempo Carta Straccia, sì. Un libro che si chiama così, dove Alto dice critico. Tante cose che dicono i giornalisti. Io direi, a un certo punto, a questo signore, queste cose, chi è che gli permette di farle? No, guarda che su questa domanda ci sono responsabilità dell'Occidente e dell'Europa gravissime, io questo l'ho detto molte volte, questa però resta la mia opinione, alcuni dicono ma il ritorno al nazionalismo anche in Europa si vedrà presto. Vedremo cosa scelgono i francesi, attenzione perché lì le sorprese sono dietro l'angolo, intanto continuate con il TV24, appuntamento con Alessandro Milano domani mattina alle 8:20, attenti noi due.